for the... Benvenuti e ben ritrovati con Birradio, primo podcast italiano sulla birra artigianale e la birra fatta in casa. È un onore avere con me al telefono in questo momento nel nostro studio virtuale Riccardo Franzosi del birrificio Montegioco. Riccardo, detto anche Riccardino, giusto? Sì, detto anche Riccardino. È il soprannome che mi porto, in realtà viene da lontano, perché dato che il nonno si chiamava Riccardo, allora per distinguermi io ero Riccardino, perché anche se in realtà mio nonno era la metà di me, ecco, quindi... un po' alla brasiliana, insomma, no? I brasiliani, sì, sì, danno... esatto, queste cose qui, sì, sì, sì. Il suffisso igno finale. Allora, Riccardo, insomma, si lavora tanto, hai lavorato tanto, ma alla fine possiamo dire che con i molti riconoscimenti nazionali ed internazionali il 2012 si è chiuso abbastanza in bellezza. Birraio dell'anno proclamato da Fermento Birra, e birrificio dell'anno, non ultimo della personalissima classifica di Stephen Beaumont, il giornalista e blogger canadese, insomma, esperto di birra. Insomma, com'è andato questo 2012? Mi sembra soddisfacente, no? direi bene, ce ne fosse, come si dice, no? Sono soddisfatto, ovviamente, dei riconoscimenti e del lavoro fatto, quindi a monte dei riconoscimenti che sono arrivati dopo gli ultimi anni di perfezionamento di tantissime delle ricette, un po' che non usciamo con nuove birre, proprio perché è stato fatto un lavoro di a mio modo di vedere, affinamento delle ricette, della produzione, e quindi doppia soddisfazione. A quante birre è arrivato il birrificio Montegioco attualmente, tra stagionali e fisse? Siamo tra, mi sembra, 27 birre. Ci sono, vabbè, un paio di birre che abbiamo fatto in collaborazione, se mettiamo anche quelle siamo tra 27, sì. Quindi, insomma, un bel lavoro, insomma, di rifare. Sì, beh, alcune di queste però sono, come hai detto tu, ma neanche stagionali, non le facciamo neanche tutti gli anni, quindi, insomma, ci sono poi le solite ricette, 8-10 birre che vengono rifatte costantemente, e le altre seguono in base alla disposizione, alla disponibilità sia nella lavorazione del birrificio che delle materie prime. Ecco, gli americani usano dire che dietro ogni birra c'è una storia da raccontare. Io sono molto d'accordo con questo. E allora, visto che c'è questa sicuramente una storia da raccontare dietro anche tutte le tue birre, ci racconti un po' la storia dietro la birra La Mummia? Sì, sì, certo. La Mummia, che è una sour ale, quindi una birra acida, detta in italiano, praticamente nasce dalla Runa, che è la nostra blonde, che in una fermentazione, in una delle tante cotte, ha preso praticamente una strada per conto suo nella fermentazione. Praticamente è stata così intaccata da lieviti selvatici. Questo qui normalmente fa sì che vada vuotata via, vada scartata. Il pensiero è stato quello di vedere dove questa strada portava, no? Quindi è stata travasata dentro delle barrique, in quell'occasione lì prestate dall'amico Walter Massa, produttore di vino della zona, e lì l'abbiamo lasciata riposare o lavorare, secondo di come la si vuol vedere, per diversi anni. E dopo i primi assaggi, che erano veramente ostici, quindi, insomma, veniva si rimpiangeva il fatto di non averla buttata via subito, ecco, diciamo così. E in realtà, dopo almeno un anno e mezzo, 18 mesi di permanenza